Sette, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Non temo agguati, ove ci fossero li affronteremmo. Così ha detto con la sua solita sicurezza Matteo Renzi oggi a proposito della fiducia che si voterà domani su Jobs Act. Oggi ha incontrato sindacati e imprese, in cui i sindacati, insomma, diciamo che c'è stata una fumata grigia, la CGIL continua a essere contrapposta, mentre la CISL sembrava abbastanza soddisfatta e la UIL così in una posizione un po' a cavallo. Comunque Renzi continua a tirare dritto, oggi appunto vi dicevo di questo incontro, domani vediamo che cosa succederà, perché ieri, vi ricordate, se avete ascoltato la puntata di Effetto Notte, c'era Civati, Pippo Civati, che è autorevole rappresentante della minoranza del PD, che ha minacciato anche di non essere presente in aula. Vedremo che cosa succederà. Intanto però ci occupiamo naturalmente di quello che è successo oggi. Fra le tante cose, delle notizie che più hanno fatto parlare, hanno creato polemiche, interventi eccetera, quella della circolare mandata da Alfano ai prefetti delle varie città per impedire di trascrivere le nozze omosessuali che delle coppie dello stesso sesso fanno all'estero. In realtà è una trasgressione simbolica, però Alfano ha mandato questa circolare e bisogna dire che si sono ribellati molti sindaci da varie parti d'Italia, hanno detto che sui diritti civili non si arretra, qualcuno ha detto, forse Vendola ha detto resti nelle caverne o esca dalle caverne a seconda di quello che preferisce fare Alfano. Comunque questo è un argomento di cui vedo già opinioni, le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, potete anche scrivere attraverso gli SMS al 349-238-6666. Argomenti, come sapete, sono tante le notizie che vi racconto, però se volete in particolare anche su questo argomento esprimere la vostra posizione. Intanto le notizie principali di oggi. Riforma del lavoro, domani la fiducia in Senato sul Jobs Act, non temo agguati nel PD, l'avete sentito, così dice Renzi, aperture da CISL e UIL, gelo dalla CGIL. Legge di stabilità, Renzi annuncia una manovra da 23-24 miliardi, il ministro Padoan calcola che la crescita 2014 in Eurozona sarà inferiore allo 0,8%. Consulta, ennesima fumata nera, Napolitano amareggiato per lo stallo, l'avanzata dell'ISIS, i terroristi islamici assediano Kobane, la protesta dei curdi contro il presidente turco Erdogan. Ebola, 4 ricoverati a Madrid, 3 casi sospetti. L'Unione Europea chiede chiarimenti alla Spagna. Unioni gay, Alfano blocca con una circolare le trascrizioni dei matrimoni omosessuali avvenuti all'estero, i sindaci però si ribellano. Nobel per la fisica, assegnato agli inventori dei LED, premiati giapponesi Asakasi e Amano, e lo statunitense Nakamura. Lutto nel mondo del circo, è morto Nando Orfei, uno dei capostipiti della cultura circense in Italia, aveva 80 anni. E per il calcio la UEFA punisce Tavecchio, 6 mesi di stop per i commenti razzisti. Partiamo quindi dall'incontro di oggi che Renzi ha avuto con i sindacati e con le imprese, con al centro naturalmente sempre la riforma del lavoro. Alla fine dell'incontro il presidente del Consiglio Renzi parla di sorprendenti punti d'intesa con i sindacati, con l'impegno di rivedersi a Palazzo Chigi il 27 di ottobre. Sul tavolo del confronto salario minimo, rappresentanza sindacale e contrattazione decentrata. Quanto all'articolo 18, il premier garantisce il reintegro resterà per i licenziamenti discriminatori, mentre per i disciplinari vanno chiarite le fattispecie. Per queste bisognerà attendere il decreto legislativo. Le critiche della CGIL è la dimostrazione che c'è democrazia, replica Renzi, l'importante è che si vada avanti. Non ci faremo bloccare da veti o dalle opinioni negative, disponibili al dialogo, rispettosi delle manifestazioni di protesta, però anche molto desiderosi di andare avanti e di continuare a lavorare per un processo di cambiamento che secondo me è straordinario. Non voglio dividere il sindacato, dice ancora il Presidente del Consiglio, ma in questa crisi vi sono responsabilità anche di chi rappresenta il mondo del lavoro. Renzi conferma quindi il voto di fiducia sul Jobs Act, si voterà domani, annuncia il Premier, certo che non ci saranno sorprese dagli scontenti del Partito Democratico. Sono convinto che sia naturale che tutte le senatrici e i senatori del Partito Democratico votino la fiducia come sempre accaduto, per cui non temo agguati. Altro capitolo, quello del TFR in busta paga, se non si tradurrà in un problema per le piccole e medie imprese ci piacerebbe farlo, dice Renzi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E domani vi ricordo che ci sarà il vertice dedicato al lavoro, il vertice informativo normale europeo qui a Milano. Ma parliamo anche di legge di stabilità. La legge di stabilità conterrà una manovra da 23-24 miliardi, lo ha annunciato Renzi ai rappresentanti di Polizia e Cocer, spiegando che verrà confermato in maniera strutturale il bonus di 80 euro e che ci saranno 3 miliardi per evitare l'aumento di tasse attraverso la clausola di salvaguardia. Il ministro dell'Economia Padoan intanto calcola che la crescita 2014 in Eurozona sarà inferiore allo 0,8% e il commissario dell'Unione Europea Katainen ribadisce prima la stabilità, poi gli investimenti, ma senza aumento del debito che metterebbe a rischio la ripresa. Intanto il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita mondiali e in particolare vede rischi di recessione per l'Europa. Ancora una volta invita la Banca Centrale Europea a intervenire. Un'Italia in recessione e un'Europa a rischio stallo, mentre l'economia mondiale rallenta la propria marcia. Il Fondo Monetario Internazionale gela le aspettative di un 2014 positivo sul fronte economico. Per l'Italia la certificazione di un altro anno col segno meno accanto al PIL. L'FMI stima un meno 0,2% con un ritorno, si spera a questo punto, al segno più solo nel 2015 con un guadagno di 8 decimali. Meglio di noi persino Spagna e Grecia, mentre la Francia fa segnare un magro più 0,4 e la Germania sfiora il punto e mezzo di crescita. Sia Parigi che Berlino vedono però tagliate le proprie previsioni. Nel complesso il PIL dell'Eurozona crescerà quest'anno di soli 8 decimali, 3 in meno rispetto alle ultime previsioni. In aumento i rischi di recessione per Eurolandia, che vede paventarsi l'inquietante 1-2 deflazione stagnazione. Tornando all'Italia, il nostro debito sfiorerà quest'anno il 137%, mentre il tasso di disoccupazione si attesterà al 12,6. Mi piace lo spirito della riforma del lavoro italiana, la dualità del mercato è un grande problema, ha affermato il capo economista dell'FMI Blanchard, che sponsorizza l'idea del contratto unico. Blanchard lancia anche un messaggio all'Eurozona: la credibilità guadagnata a caro prezzo con risanamento di bilancio non va minacciata. Ciò non implica però che non ci sia spazio per usare la politica di bilancio per aiutare a sostenere la ripresa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi c'è l'infinita telenovela della Consulta, 17esima fumata nera ancora alle Camere per l'elezione dei due giudici della Corte Costituzionale. Né Violante né Caramazza hanno raggiunto il quorum. Rattrista e preoccupa lo stallo del Parlamento, così ha detto in una nota il Capo dello Stato. Si dice rattristato ma anche preoccupato il Capo dello Stato dopo l'ennesimo nulla di fatto nell'elezione dei giudici della Consulta. Ad amareggiare Napolitano è la constatazione che i suoi ripetuti appelli siano caduti nel vuoto. La conflittualità delle forze politiche ha ancora una volta impedito di raggiungere le convergenze necessarie ad arrivare a nomine alle quali le Camere avrebbero dovuto provvedere fino dal 12 giugno, rileva il Presidente della Repubblica. Quella di oggi è stata la 17esima fumata nera. Bloccati dai veti incrociati e dai malumori interni, non hanno raggiunto il quorum richiesto i candidati di PD e Forza Italia, Violante e Caramazza. Il nuovo voto è stato fissato per martedì, giorno in cui il Parlamento in seduta comune proverà ad eleggere anche l'ultimo membro mancante del CSM. Nel frattempo, dopo i dubbi avanzati dal Movimento 5 Stelle, oggi anche Brunetta di Forza Italia ha chiesto di verificare se Violante sia in possesso dei requisiti necessari per l'elezione alla Consulta. L'ex presidente della Camera ha tutti i titoli richiesti, ha replicato il PD. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Spostiamoci adesso sulle notizie dall'estero e parliamo dell'avanzata dell'ISIS. Si spara ormai per le strade a Kobane, la città siriana dove le bandiere dei difensori curdi sventolano a poca distanza da quelle degli attaccanti jihadisti. Le ONG locali parlano di 400 morti accertati dall'inizio dell'offensiva, ma i numeri reali potrebbero anche essere il doppio. E mentre i due eserciti irregolari si affrontano per il controllo della città, il premier turco Erdogan dà già per scontata la vittoria degli islamici e lascia i suoi carri armati fermi a guardare dall'altra parte della frontiera, dove le forze di sicurezza turche hanno imposto un coprifuoco per contenere la protesta dei curdi che chiedono un intervento di Ankara in Siria. Nella zona continuano anche i raid aerei della coalizione americana, che al momento però sembrano incapaci di fermare l'avanzata degli jihadisti. Intanto, lungo lo stesso confine, un prelato siriano è stato rapito insieme a un gruppo di fedeli. I sequestratori, forse jihadisti, hanno saccheggiato il convento del villaggio di Kneaie e rapito circa 20 cristiani. Nicola Scevola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di avanzate, c'è una certa avanzata di Ebola, il primo caso di Ebola in Europa, a Madrid, mentre le autorità sanitarie locali hanno messo sotto monitoraggio 52 persone in Spagna, medici, infermieri, impiegati nell'ospedale dove è avvenuto il contagio, che protestano. E l'Unione Europea chiede spiegazioni al governo spagnolo. Il personale sanitario dell'ospedale Carlos III di Madrid, dove è ricoverata l'infermiera di 44 anni contagiata da Ebola, sta manifestando e chiede le dimissioni del ministro della Sanità. Medici e infermieri chiedono spiegazioni sulle circostanze del contagio e accusano i direttori sanitari di non aver fornito né attrezzature adeguate né la formazione necessaria a trattare i pazienti affetti dal virus. A chiedere chiarimenti è anche la Commissione europea, che ha invitato l'esecutivo spagnolo a rendere conto delle falle che potrebbero aver reso possibile il contagio del primo paziente di Ebola al di fuori dell'Africa. Il ministro della Sanità, Ana Mato, ha garantito che la Spagna partecipa attivamente ai piani di prevenzione ed è in grado di garantire il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. Intanto sono altri 3 i pazienti ricoverati per una sospetta trasmissione, tra loro il marito della donna contagiata, l'unico ad alto rischio di aver contratto il virus. Altre 52 persone sono sotto monitoraggio perché entrate in contatto con l'infermiera malata, che affermano i medici è stabile. Miriam Corgia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso di nuovo sulle notizie italiane. Vi dicevo, stop alle trascrizioni dei matrimoni fatti gay, fatti all'estero. Il ministro dell'Interno Angelino Alfano annuncia una circolare ai prefetti per chiedere la cancellazione delle registrazioni delle unioni tra persone dello stesso sesso. Mi rifiuto, ha annunciato il sindaco di Bologna, e così rispondono anche da Grosseto, da Napoli, da varie città, mentre scoppia la polemica politica. Uno scontro seguito con amarezza da chi, come Andrea, ha chiesto al comune di Milano il riconoscimento delle nozze con Luca. Lo ha intervistato Raffaella Calandra. Io e Luca ci siamo sposati a New York lo scorso giugno, abbiamo presentato domanda al comune di Milano e ci è stata rifiutata a fine giugno. Abbiamo ripresentato domanda 15 giorni fa e siamo in attesa, insomma, che il sindaco sciolga le riserve. Però è arrivata adesso la marcia indietro del ministro dell'Interno con l'annuncio di una circolare per cancellare le trascrizioni laddove già avvenute. Noi siamo fiduciosi che il sindaco Giuliano Pisapia si schieri dalla nostra parte in questa battaglia, che a questo punto è davvero diventa una battaglia ideologica. New York è uno di quei posti dove ci si può sposare pur non essendo residenti. Ci trovavamo lì in vacanza e abbiamo detto: ma perché non ci sposiamo? Stiamo insieme da 11 anni. Un colpo di testa molto romantico. E che effetto fa sposarsi in un altro paese e poi dover combattere per vedere il riconoscimento di quel matrimonio nel proprio paese? Ma guardi, dispiace, perché quando abbiamo lasciato l'America in dogana ci hanno chiesto che legame di parentela avevamo e abbiamo detto siamo marito e marito, e i poliziotti ci hanno fatto i complimenti perché abbiamo raccontato che ci eravamo appena sposati. Arrivati in Italia, io e Luca siamo tornati ad essere 2 coinquilini che condividono lo stesso tetto, ma senza nessun valore giuridico, senza nessun riconoscimento affettivo. E questo è quello che noi chiediamo. La trascrizione sappiamo che non apre ai diritti e quello spetta ad una legge nazionale, però riconosce un'unione, riconosce il valore affettivo di un'unione. E vedo già i vostri messaggi al 349-238-6666 su questo argomento, anche sulla pagina Facebook di Effetto Note. Potete continuare a esprimere le vostre opinioni se condividete questa decisione del ministro Alfano, oppure se, come per esempio altri esponenti come del PD, Orfini, il presidente del PD, che dice in realtà più che bloccare questa trascrizione va introdotta in Italia, vanno introdotte le unioni civili. Il PD continua a dire che ci vuole una legge. Per il momento è tutto fermo, però è arrivata la notizia questa sera di una decisione, una nomina che era nell'aria da tempo, è stata ufficializzata questa sera. Silvio Berlusconi dà il via libera alla nascita di un dipartimento ad hoc per la libertà, per le libertà civili e diritti umani, e lo affida a Mara Carfagna, una scelta che dice delle cose importanti, nel senso che da una parte nel Partito Azzurro è sembrato utile e opportuno marcare una certa distanza dalle posizioni del ministro dell'Interno Alfano, evidentemente, e dalla sua decisione di inviare questa circolare, e dall'altra che qualcosa sta cambiando in Forza Italia. Adesso parlerei invece dei Nobel per la fisica. This year's prize is about light. Nobel per la fisica è stato assegnato, questo è l'annuncio, è stato assegnato ai giapponesi Isamu Akazaki, Hiroshi Amano e all'americano Shuji Nakamura, che è un nome giapponese anche questo. Alla fine il riconoscimento è stato assegnato per l'invenzione dei LED, i rivoluzionari dispositivi elettronici che sfruttano le proprietà ottiche di alcuni materiali per produrre luce in modo più efficiente dal punto di vista energetico e anche rispettoso per l'ambiente. E c'è un lutto nel mondo del circo: è morto Nando Orfei, uno dei capostipiti della cultura circense in Italia. È morto dopo una lunga malattia all'ospedale San Raffaele, aveva 80 anni e è anche conosciuto per il ruolo che ha avuto in passato come stella del cinema, anche si ricordano le sue apparizioni nel film di Fellini, Amarcord e I Clown. E per chiudere, chiudiamo con la sentenza dell'UEFA nei confronti del presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio. Tolleranza zero doveva essere e tolleranza zero è stata. Inopportune e riprovevoli erano state giudicate le frasi di stampo razzista che Carlo Tavecchio aveva pronunciato presentando la propria candidatura alla presidenza della Federcalcio in una sfida elettorale poi vinta nei confronti di Demetrio Albertini. Opti Pogba è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare della Lazio. In Inghilterra deve dimostrare il suo curriculum e il suo pedigree. Ora la decisione della commissione disciplinare. 6 mesi di squalifica e inibizione, quindi niente congresso UEFA nel marzo 2015 ed esclusione temporanea da tutte le commissioni, insieme all'impegno, del resto già assunto da Tavecchio, di avviare un progetto per l'integrazione. Per il nostro calcio, l'ennesimo cartellino rosso. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso ci aggiorniamo dopo sulle notizie, aggiorniamo chi viaggia, però vedevo i vostri messaggi, qualcuno lo vorrei leggere. Per esempio Susi dice, guarda quella lettera di quel ministro, quindi Alfano è la goccia, per favore potresti indagare sulle elezioni che si stanno tenendo per le province abolite, pare che di abolito ci siano soltanto i cittadini con il loro voto. Qua effettivamente bisognerebbe interessarsi anche di questo. Tina dice, ha ragione Alfano, se il matrimonio non è ancora consentito in Italia, quei contratti all'estero nel nostro territorio sono nulli, effettivamente per ora sono solo simbolici. Erminio da Bergamo, Alfano è riuscito a guadagnarsi le prime pagine dei giornali a far sapere che esiste un misto di meschinità e miseria umana. Silvia, i diritti civili non si toccano, lavoriamo tutti insieme per garantirli a ogni essere umano senza alcuna discriminazione. È una battaglia di civiltà. Ci sentiamo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi subito qui, prima di riassumervi le notizie, ancora qualche messaggio sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sempre sulla circolare mandata da Alfano ai prefetti per bloccare la trascrizione di matrimoni gay fatti all'estero. Gilberto e Sergio danno un'opinione piuttosto pesante su Alfano. Irene scrive, basta, le persone gay devono avere gli stessi diritti degli etero, non le discriminazioni, spero che venga introdotto al più presto anche in Italia il matrimonio gay. E poi Enzo dice, gay in Italia hanno il diritto allo stesso trattamento legislativo e i riconoscimenti che ricevono nelle democrazie più evolute, anche se credo che questo argomento, come anche quello degli stranieri, dice Enzo, venga sventolato solo per distogliere la gente dalla crisi economica e dai fallimentari governi Monti, Letta, Renzigno. E allora andiamo sulle notizie di oggi. Domani la fiducia sul Jobs Act, Renzi dice non temo agguati, però sono spaccati minoranza PD e sindacati, c'è l'appello di Civati al Colle che poi risentiremo, era proprio qui ieri effetto notte. Napolitano è amareggiato per lo stallo della Consulta, ancora fumata nera, Alfano che blocca le trascrizioni dei matrimoni gay, di rivolta di vari sindaci, in testa il sindaco di Bologna. Koban, la cittadina siriana vicino alla Turchia, è nella morsa dell'ISIS. Erdogan, il presidente turco, dice l'operazione di terra ora è necessaria. E cresce l'allerta Ebola in Spagna. Quindi insomma, oggi abbiamo sentito Renzi che si è incontrato, aveva annunciato che avrebbe avuto un'ora di tempo per incontrare i sindacati e anche poi dopo le imprese. Il governo comunque non arretra, ha fatto sapere Renzi sulla riforma del lavoro, i veti non ci bloccano, ha detto il Presidente del Consiglio, che annuncia per domani, appunto, conferma la fiducia al Senato sul Jobs Act e dice di non temere agguati nel PD. Ma la fiducia, abbiamo detto, la questione di fiducia ha spaccato decisamente i democratici, ha spaccato anche la minoranza dei democratici, perché i bersaniani hanno detto già da ieri con Dattore che anche se sono contrari a questa riforma del lavoro, al Jobs Act, alla fine per una questione di responsabilità, per non far cadere il governo, voteranno sì. E Civati proprio qua ieri effetto notte aveva detto che questa era un'iniziativa scellerata e che alcuni senatori non avrebbero partecipato al voto. Sentiamolo. Dattore dice una cosa clamorosa pensando allo stato interno del PD, cioè dice che voteranno sì, almeno l'area che Dattore rappresenta, cioè l'area bersaniana, soltanto per non far cadere il governo. Questo non significa evidentemente che condividano né le modalità né il merito di quello che Renzi sta proponendo. E questo quindi non è solo un segnale di debolezza, ma dal punto di vista del governo e della qualità dei nostri provvedimenti è un atto scellerato. Non ho altro modo per definirlo. Tra l'altro alcuni senatori per propria iniziativa non parteciperanno al voto, non so quanti saranno perché non è un complotto il nostro, abbiamo chiesto mille volte che ci fosse l'occasione per discutere, Renzi aveva garantito che ci sarebbe stata tutta la trasparenza a questo dibattito e tutto l'atteggiamento di disponibilità che poteva riservarci, di fatto mette la fiducia su una legge delega, per cui non fa in fretta, perché la legge delega è uno strumento lunghissimo nella sua evoluzione. In compenso chiude tutte le porte al dibattito e al confronto parlamentare, perché poi fortunatamente per la democrazia italiana non c'è solo il PD, ci sono anche altre forze che forse vorranno partecipare anche loro. Questo ieri Civati quindi aveva annunciato che alcuni senatori non andranno al voto, attaccato alla minoranza bersaniana. Mi pare di vedere un Crozza adesso a di martedì di Giovanni Flores con una parrucca che dovrebbe essere quella della Camusso. Sentiamo, proviamo a alzare. Io lo devo ancora ridare, il poncio che lo uso ancora come plaid sul divano quando guardo Santoro. Adesso, se mi permettete, mi rilasso con questo nuovo gioco elettronico. Ah, sono quelle palline che forse negli anni 70 sulle spiagge si tenevano in mano. Scusate, una diavoleria elettronica. Non usatelo a casa, perché tra l'altro... Vabbè, non l'abbiamo colto nel momento cruciale, Camusso Crozza. Colgo invece la presenza di Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Allora, dicevamo di questo incontro, che Renzi aveva definito un incontro insomma soddisfacente, ma in realtà la CGIL ha confermato che ci sarà la manifestazione il 25 ottobre e ha conquistato Renzi abbastanza la CISL, perché Furlan si diceva soddisfatta, si diceva che ormai che finalmente si parlava di certi argomenti importanti, la UIL un po' così, però Renzi va dritto per la sua strada. Vogliamo sentire, prima di sentire il tuo commento, Fabrizio, sia su quello che ha detto Civati, sia su quello che dirà Renzi, questo uno dei passaggi dove dice che non teme agguati. Noi abbiamo, credo, fatto un lavoro molto serio con il Partito Democratico, ci abbiamo discusso, ci siamo parlati, abbiamo anche modificato la linea di iniziale per ascoltare alcune delle critiche che venivano da una parte della minoranza. Io credo che in un Partito Democratico a un certo punto poi si deve decidere e votare. Si è votato all'interno della direzione del PD, si voterà domani alla fiducia. Io sono convinto che sia naturale che tutte le senatrici e i senatori del Partito Democratico votino la fiducia, come è sempre accaduto, per cui non temo agguati. Ove ci fossero, li affronteremmo. Ecco. Fabrizio, quindi Renzi è convinto della sua posizione, mi pare che sia presentato anche delle modifiche oggi sull'articolo 18, no, ai sindacati. Sì, ai sindacati ha ribadito la posizione che è quella uscita dalla direzione del PD, che saranno stabilite con molta precisione le tipologie per le quali vale l'articolo 18 in caso di licenziamento disciplinare. Però questo riguarderà una fase successiva, cioè riguarderà i decreti attuativi della legge delega, mentre invece nella legge delega che domani sarà votata in Parlamento e quindi nel maxiemendamento che sarà presentato sulla legge delega non si parlerà di articolo 18. Renzi sa che con la fiducia dovrebbe avere garantito il voto del Senato, però non vuole inserire nella Job Act, nella legge delega, quell'accordo sancito nella direzione del PD, perché vuole mantenersi le mani libere per poter fare poi con i decreti attuativi la vera riforma dell'articolo 18 come lui intende che debba essere fatta. Quindi è una cosa che introduce poi in un secondo tempo questa? Sì, insomma, domani si vota una delega sufficientemente generica per non scontentare troppo tutti. Non accontenta nessuno probabilmente, nel senso che anche il nuovo centrodestra non viene accontentato, perché avrebbe voluto una formulazione più esplicita sull'articolo 18 o più a favore di una netta abolizione dell'articolo 18. Non accontenta sicuramente la sinistra PD, che rivendica l'accordo in direzione e vorrebbe almeno che Renzi fissasse quei paletti che aveva fissato nella direzione del PD. Renzi ignora entrambe le posizioni, va dritto per la sua strada, si fa dare una delega generica e poi farà la riforma del mercato del lavoro con i decreti attuativi. Proviamo a sentire un attimo un Renzi Crozza adesso, se riusciamo a sentire. È bianco che più bianco non si può. No, non esistono leggi impossibili, esistono solo sindacati sbagliati. Ecco, l'abbiamo colto proprio nel momento in cui, almeno nell'ironia di nella satira di Crozza, mostra un foglio bianco, per dire, no, come generico il momento, il Jobs Act. Senti, Fabrizio Forché, secondo te quali saranno le caratteristiche principali poi del documento definitivo? È chiaro che non è la sfera di cristallo, però nelle intenzioni di Renzi rispetto a quello che ha detto finora, anche con gli imprenditori? Ma guarda, il Job Act in realtà è qualcosa di molto più esteso che non il solo articolo 18, certo. Sarebbe sbagliato ricordare sempre solo l'articolo 18, qui parliamo di cose anche molto più ampie, cioè c'è una riforma degli ammortizzatori sociali con delle tutele maggiori appunto in caso di licenziamento, c'è il contratto a tutele crescenti che deve diventare, e questo è il vero pilastro diciamo del Job Act, deve diventare il contratto prevalente in futuro, sperando in questo modo di favorire un passaggio di lavoratori ora che sono a tempo determinato, sono semplici partite IVA, verso il canale del lavoro a tempo stabile, il contratto a tempo indeterminato, tutele crescenti in modo da favorire l'impresa nella fase iniziale di questi contratti. Ricordiamo che il Job Act è soprattutto questo, se parliamo solo di articolo 18 sembra che stiamo parlando di una cosa che non è quella che si vota domani in effetti. Per chiudere con i sindacati, quindi dicevo la CGIL, la leader Camusso ha detto non cambiamo la nostra posizione, rimane confermata la manifestazione, invece CISL e UIL sembrano più possibilisti sul fatto. Ma sì, questo è un risultato netto diciamo che Renzi porta a casa. La durezza con cui lui ha posto il tema anche dell'articolo 18 in questi queste settimane, in questi 15 giorni, porta ad un risultato chiaro che è quello della divisione dei sindacati. Ora, su un tema del genere in passato i sindacati non si erano mai divisi, dimostra questa divisione che c'è una sensibilità diversa nel Paese rispetto al passato sull'articolo 18, una sensibilità che addirittura viene accolta appunto in sindacati come la CISL, come la UIL, che prima su questo erano assolutamente arroccati su una difesa dell'articolo 18. D'altra parte vediamo nei sondaggi che sono stati fatti in queste settimane che oltre il 50% degli italiani non vuole più sentirne parlare di articolo 18, per loro è una questione del tutto superata e si può rinunciare alle tutele dell'articolo 18, purché si faccia una riforma del mercato del lavoro che realmente favorisca l'occupazione. Fabrizio, parla tanto per farla, non ha senso. Scusa, ti interrompo, c'è Camusso adesso a Ballarò. Faccia Gogialini, sentiamo. Figli di sei anni di crisi, certo. E di sei anni di ma non contrasto. Figli. Non solo. Figli. No, sono figli di quello, sono figli di un'altra cosa che però non viene mai detta. Possiamo paragonare un po' di tabelle sugli investimenti delle imprese tra la Germania, non l'Italia e qualche altro paese? L'abbiamo perché detto, sembra che quasi noi siamo tutte le puntate di Ballarò abbiamo parlato sembra, di quando ho fatto questa domanda, noi siamo un soggetto unico. Avevamo il controllo del Parlamento, votavamo le leggi, facevamo la politica. Sì, abbiamo fatto qualche decina di migliaia di accordi per provare a difendere posti di lavoro in questo paese. Abbiamo fatto questo, ci siamo difesi, certo. Ma quando abbiamo i licenziamenti e la ristrutturazione, cosa dobbiamo fare? Qual è l'immagine che si ha di un sindacato dentro la crisi, senza una lira di investimenti, con i tagli lineari su tutto, con le imprese che non investono? Qualcuno mi dica cosa possiamo fare se non provare a difendere dei posti di lavoro. Vuoi fare una breve chiusura, Fabrizio? Forché? Il problema è come si difendono i posti di lavoro. Sentivo la Camusso. I posti di lavoro si difendono favorendo appunto quegli investimenti che la Camusso diceva che le imprese non fanno. Ma le imprese non fanno investimenti perché c'è un sistema di regole e di convenienza per l'impresa che disincentiva gli investimenti. Il punto è semplicemente quello: se tu innovi e fai regole nuove tali da incentivare gli investimenti, potrai creare posti di lavoro. Se difendi regole del passato con le quali le imprese non possono investire, non crei posti di lavoro. Grazie Fabrizio Forché, buon lavoro a te intanto. Grazie, grazie. Ciao a Fabrizio. Voi. E a proposito di lavoro, Sergio Rava, qui domani sarà al vertice informale, proprio qui a Milano, il vertice europeo sul lavoro. Ci anticipi giusto qualcosa, Sergio? Sì, ciao Roberta, buonasera agli ascoltatori. Il vertice finalmente si tiene, era stato cancellato a luglio, era stato cancellato anche domani, poi è stato rimesso in calendario, su questo la presidenza italiana ha parecchio pasticciato. L'orario finalmente è chiaro, perché ieri non si aveva sì, tra l'altro neppure fino a oggi era chiaro gli orari, sono stati resi noti stasera. Si inizia a mezzogiorno con i ministri del lavoro di 15 paesi e poi si andrà avanti alle 15 con i leader. Ci saranno i leader europei, ci sarà Renzi, ci sarà Hollande, la Merkel, ci saranno i, diciamo, i massimi vertici delle istituzioni europee, quindi anche Barroso e Van Rompuy. Sì, cosa uscirà? Difficile dirlo, difficile dirlo, perché questo vertice è stato in realtà abbastanza svuotato. L'Italia e la Francia volevano farne più un vertice anche sulla crescita, collegare crescita e occupazione. La Germania, con l'ala rigorista, a fine agosto l'ha svuotato della parte crescita, quindi anche, diciamo, politiche per la crescita, investimenti eccetera, e ed è rimasto solo il discorso occupazione. È un vertice informale, in realtà non è neppure un vertice, è una conferenza, per cui non ci saranno probabilmente neppure grosse conclusioni. Quello che la scommessa che Renzi ha davanti è alla fine portare, utilizzare il palcoscenico di questo vertice internazionale per portare in contemporanea il voto del Senato, la fiducia al Senato sul Job Act, e quindi farne il palcoscenico della prima vera riforma strutturale chiesta dall'Europa, e magari riuscire anche a tirar fuori qualcosa, qualche impegno preciso dell'Europa sull'occupazione, ma su questo al momento non ci sono grandi avvisagli. Ci dirai domani se qualcosa di concreto è stato detto. Grazie Sergio Nava, a domani, ciao. A domani. Noi ci sentiamo tra poco. Suona l'allarme di casa, corro subito a vedere. Ti accompagno. Che sarà successo? Allarme, furto, zona ingresso. No, suona anche il tuo allarme. Dobbiamo correre anche a casa tua. Tranquilla, io ho Combibox e posso controllare dal mio telefonino quello che è successo. Combibox, l'ideatore del primo antifurto GSM, crea sistemi di allarme professionali per controllare casa e ufficio dal telefonino. Vai su combibox.it. Guarda anche tu sul mio telefonino. È Fuffi, il gatto del vicino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, via! Tana per papà, tana per la mamma seduta accanto a papà, tana per Giulia accanto a me, tana per Fido nel portabagagli e tana per il mio amico invisibile! Nissan Note, spazio versatile in movimento. L'abitabilità e il comfort da 11.900 euro con anticipo zero. Info su nissan.it. Tana libera tutti! Nissan, innovation that excites. Parliamo di un'eccellenza italiana, Omnisist, l'unica società specializzata e certificata nella gestione avanzata dei rifiuti industriali. Smaltimenti e recuperi con Omnisist sono in totale outsourcing per eliminare alla radice tanti problemi anche penali. Infatti sui rifiuti poche aziende italiane sono a norma. Chiedete a Omnisist una diagnosi della vostra situazione. È gratis. Andate sul sito omnisist.it e chiedete. Omnisist.it. Omnisist, il valore della responsabilità. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Grazie all'espansione dell'anticiclone nordafricano, per molti giorni avremo tanto sole e caldo fuori stagione al centro-sud nelle isole. Tempo più variabile invece al nord a causa del continuo scorrere di fresche e umide correnti atlantiche. In particolare nella giornata di domani, dunque mercoledì, splenderà appunto il sole al centro-sud nelle isole, più un po' di nubi innocue, molte più nuvole invece al nord e sull'alta Toscana, con qualche pioggia su Alpi, Prealpi, Liguria e pianura lombarda. Le temperature massime sono in generale aumento, punte fino a 30 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate il sito www.meteo.it. Con questo è tutto. Sai che da oggi puoi pagare i tuoi bollettini in modo facile, comodo e veloce? Usa la tua carta Visa UvPay in tutti i punti vendita abilitati. Basta un semplice gesto. La vita va presa con Visa. Informativa completa su visaitalia.com. Pescato di Calabria, un mare da gustare, con condizioni di igiene e di conservazione ecosostenibili, con la tracciabilità e il controllo sanitario dei prodotti, con la riduzione dell'impatto ambientale in acquacoltura, con i nuovi mercati ittici regionali. Da oggi il pescato di Calabria è ancora più buono. Ittica.info, campagna promossa dal Dipartimento Agricoltura e Pesca della Regione Calabria, Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013. Ciao Marco, quanto tempo? Non farti mai sentire, eh? Ah, Paolo! Lo so, è che al lavoro stanno ristrutturando e sono preoccupato. Tu invece? L'anno scorso ho seguito il Master Cineas in Risk Engineering e ora la gestione del rischio è il mio lavoro. Prevenzione, controllo. Ah, spiegami meglio. Combatti la crisi. In 16 anni Cineas ha formato oltre 500 professionisti nella gestione del rischio industriale. Master in Risk Engineering e Risk Management nelle imprese dal 21 novembre 2014. Info su cineas.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, vi stavo raccontando varie notizie, adesso passiamo all'allarme che riguarda, perlomeno così, come primo caso in Europa, su Ebola. Vogliamo sentire ancora un attimo la leader CGIL Camusso, visto che oggi c'è stata ancora la rottura con Renzi e a Ballarò. La terza che deve essere volontario, perché se un lavoratore pensa che non gli interessa una disponibilità immediata, magari appunto vuole accumulare per comprarsi la casa o per altri investimenti che intende fare, perché dobbiamo obbligarlo? Quindi voi non siete pregiudizialmente contrari? No, abbiamo detto quindi non è contraria Camusso su questo anche dibattito sul TFR, ne abbiamo parlato molto anche qui effetto notte. Però adesso vi riassumo brevemente le notizie e poi passiamo al prossimo argomento e al prossimo ospite. Domani la fiducia, dicevamo, sul Jobs Act in Senato. Renzi dice che non teme agguati, però sono spaccati sia i sindacati che la minoranza del PD e c'è l'appello di Civati a Napolitano. Napolitano che a sua volta è amareggiato per lo stallo per la consulta, perché non si decidono in Parlamento a eleggere i due membri laici della Corte Costituzionale. Alfano che blocca le trascrizioni dei matrimoni gay è rivolta da parte di alcuni sindaci, in particolare il sindaco di Bologna. Vendola dice esca dalle caverne, e continuano i vostri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Kobane, la città siriana ai confini con la Turchia, è nella morsa ormai dei terroristi dell'ISIS e il presidente turco Erdogan parla di una necessità di un'operazione di terra. Cresce l'allerta Ebola in Spagna dopo il primo caso, e poi per i Nobel per la fisica abbiamo visto sono stati assegnati a coloro che hanno inventato per primi inventori del LED, delle luci a LED. Quindi il tema adesso è quello di Ebola, perché in Europa, dopo il contagio a Madrid, del primo contagio, 3 casi sospetti, cresce la preoccupazione. Il primo caso in Europa è questo, che ha riguardato un'infermiera ammalatasi a Madrid dopo aver curato un missionario infettato di ritorno dalla Sierra Leone. Al momento quindi sono 4 le persone ricoverate all'ospedale madrileno Carlo III. Oltre all'infermiera di 44 anni con una diagnosi conclamata, quindi è sicuro, sono sotto osservazione il marito dell'infermiera, un'altra infermiera che faceva parte del gruppo di sanitari che ha assistito 2 missionari deceduti, e un turista di origine nigeriana proveniente dall'Africa. Però la paura man mano è cresciuta, tanto che le persone sotto sorveglianza lì a Madrid, come ha reso noto il quotidiano Il País, nel pomeriggio sono salite a 52, tenute sotto controllo, e adesso l'Unione Europea chiede chiarimenti su dove insomma c'è stato questo varco nel sistema sanitario, come è stato possibile. La ministra della salute italiana Lorenzina ha detto: da noi soltanto falsi allarmi, però certamente bisogna essere vigili. Allora coinvolgo il professor Aldo Morrone. Buonasera, bentornato professore. Buonasera a lei, gli ascoltatori. Primario a Regina Elena, Istituto San Gallicano, capo del Dipartimento di Medicina dell'Immigrazione e Malattie Tropicali e virologo di fama internazionale. Quindi professor Morrone, che cosa bisogna pensare? Finora sembrava una cosa circoscritta, ma non nel senso viva, a paesi africani, e abbiamo detto anche altre volte che i paesi occidentali hanno sottovalutato per anni, perché in realtà è da anni che questo virus è stato scoperto. Ora però fa breccia anche in Europa? Ma è normale che un virus del genere, che ha colpito decine di migliaia di persone, avendo uccise gran parte, possa passare in Europa, negli Stati Uniti e negli altri paesi. Il vantaggio è che noi siamo preparati a questo passaggio, siamo pronti, abbiamo servizi sanitari che possono immediatamente riconoscere la malattia e adeguatamente trattarla. Ci saranno sicuramente state delle falle, probabilmente questa infermiera non ha adeguatamente rispettato le norme del tipo di controllo che doveva assumere, lo si chiama a livello 4, nei confronti di pazienti che hanno questo rischio di contagio. però non c'è ombra di dubbio che la differenza tra quello che sta accadendo in Africa occidentale, quello che potrebbe avvenire con il passaggio di alcune persone malate in Occidente, mi riferisco all'Europa e agli Stati Uniti, non c'è confronto assolutamente. Quindi noi siamo attrezzati per cercare, per fronteggiare, per guarire questa malattia. Si parlava di vaccino, ma se noi siamo in grado di, ma abbiamo certo altri strumenti, altre misure igieniche, eccetera, ma con cosa si guarisce qui in Europa, in Occidente? Lei deve immaginare, lo diciamo anche agli ascoltatori, che questa malattia, il 50% delle persone che sono state colpite dal virus sono guarite o non si sono ammalate. Questa è una cosa molto vantaggiosa. Questo vuol dire che anche da noi c'è la possibilità che, se queste persone vengono adeguatamente curate e assistite in ospedali degni di questo nome, non come accade in Africa, possono guarire indipendentemente dal siero o dal vaccino che possa essere trovato. Certo, questa situazione impone una ricerca più vigorosa, intendo dire un investimento professionale, finanziario e strutturale maggiore, però da noi abbiamo dei centri di tecnologia avanzata e soprattutto dei centri di animazione straordinari, per cui chiunque entra dentro uno di questi centri ha grandi probabilità di uscirne guarito. Ma quindi quando si dice ci sono poche dosi di vaccino, di siero, vengono sperimentate per esempio su quel medico americano, allora in realtà non è vero che abbiamo proprio queste dosi infinitesimali o che ancora si deve sperimentare, professore? Ha ragione lei quando afferma che ci sono poche dosi, ma c'era anche molto poco interesse nell'investire su un vaccino che avrebbe guarito persone provenienti o che vivono in una parte del mondo dove c'è scarso interesse a produrre vaccini in questa modalità. Io ricordo che il vaccino della lebbra o il vaccino della malaria non siamo riusciti ancora ad ottenerlo, il vaccino della schistostomiasi, malattie che colpiscono centinaia di milioni di persone. Ben venga quindi un maggiore intervento, però il collega americano certamente è guarito con un coinvolgimento di questo farmaco che non è proprio un vaccino orsiero, ma certamente per il livello dell'ospedale dell'Emory University Hospital dove è stato ricoverato. La ministra Lorenzin, ministra della Salute, ha anche detto che intende chiedere un censimento degli italiani nei paesi a rischio, immagino, perché se dovessero tornare, sapere chi sono e tenerli sotto controllo, no? Una buona misura questa sarebbe, professor Morrone. Io devo dire che noi dobbiamo consigliare alle persone che per motivi di lavoro, per motivi professionali, come dire, sono costrette comunque ad andare in queste aree del mondo, a sottoporsi a una serie di controlli, di visite, in rapporto anche alla sintomatologia che presentano, ma senza creare panico, perché questa situazione mi ricorda molto quello che è accaduto all'inizio della sindrome, che poi sarebbe stata chiamata AIDS o AIDS, per cui ci fu un terrore diffuso a livello mondiale anche di essere vicini alle persone malate. Oggi io ho ricevuto telefonate da scuole dove ci sono bambini, non come dire che sono arrivati in questo momento da quest'area del mondo, ma bambini semplicemente i cui genitori sono nati in quei paesi, bambini ormai nati in Italia che comunque, proprio perché sono di origine nigeriana, tanto per darle un'idea, hanno spaventato questi genitori. Li ho tranquillizzati, noi, a mio parere una buona cultura mass-mediologica dovrebbe aiutare a tranquillizzare queste persone, tenendo alto comunque l'attenzione nei confronti di una malattia che oggi ha dimostrato non viene fermata dai passaporti o dal filo spinato, ma viene fermato da un grande impegno da parte di tutti i paesi che possono permettersi di investire in queste malattie. Grazie professor Aldo Morrone, grazie, grazie, buona continuazione. Grazie a voi e agli ascoltatori. Buona serata. Ci sono aggiornamenti per chi viaggia? Va bene. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie in pochi secondi, ma vi do anche l'ultimissima, arrivata adesso un'agenzia, riguarda la notizia di cronaca nera. È stata uccisa l'anziana donna trovata morta nel pomeriggio nella sua abitazione di Tivoli, vicino Roma. Secondo quanto si è appreso, sul corpo sono state riscontrate oltre 20 coltellate. A trovare il cadavere della donna è stato il figlio. Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Roma. E poi le altre notizie in primo piano della giornata sono sempre la riforma del lavoro, con l'incontro che Renzi ha avuto con i sindacati, in particolare con le imprese, con i sindacati. sindacati riuscito a trovare un accordo per il momento, sembra, con CISL e UIL, mentre la CGIL con la leader Camusso ha confermato posizioni contrapposte comunque alla manifestazione del 25 ottobre. Legge di stabilità, Renzi annuncia una manovra da 23-24 miliardi, il ministro dell'economia Padoan calcola che la crescita 2014 in Eurozona sarà inferiore allo 0,8%. Poi c'è l'avanzata dell'ISIS con i terroristi islamici che assediano la città siriana di Koban e la protesta dei curdi che chiedono protezione al presidente turco Erdogan. Ebola, ne abbiamo appena parlato, 4 ricoverati a Madrid per 3 casi sospetti, un caso conclamato e l'Unione Europea chiede dei chiarimenti alla Spagna. Unioni Gay, Alfano blocca con una circolare le trascrizioni dei matrimoni omosessuali avvenuti all'estero, i sindaci si ribellano, monta la polemica politica e non solo. E continuano i vostri messaggi anche al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. I Nobel per la fisica sono stati assegnati agli inventori dei LED. Poi c'è stato un lutto nel mondo del circo, è morto Nando Orfei, aveva 80 anni, è stato capostipite della cultura circense in Italia. Per il calcio, la UEFA che punisce Tavecchio, 6 mesi di stop per i commenti razzisti. Europa 24 Notte. Per quanto riguarda lo spazio europeo, parliamo di cambiamenti climatici. Il mese scorso l'ONU ha convocato un summit mondiale sui cambiamenti climatici, ne abbiamo parlato qui a Effetto Notte. Il segretario generale Ban Ki-moon si è detto molto soddisfatto nonostante l'assenza di India e Cina. È stata una giornata eccezionale, ha detto. In Europa, dove il tema è discusso da molti anni ormai, la reazione non è stata così entusiastica, perlomeno tra i parlamentari europei, di cui Laura Bettini ha raccolto i pareri. I cambiamenti climatici sono al centro dell'agenda europea da molto tempo, ma non è così in tutto il mondo e non accade nemmeno nei singoli paesi europei. Sarà anche per questo che il portavoce della Commissione per Azione Clima, Isaac Valero Ladron, afferma che il summit ONU ha avuto il sicuro pregio di aver riportato il tema sull'agenda dei politici mondiali. Il vero problema però, sottolinea Mauro Brook Riley dell'associazione ambientalista Friends of the Earth, è come fissare un tetto delle emissioni anche tra i paesi membri dell'Unione Europea. C'è sempre una contrattazione, un braccio di ferro per abbassare gli obiettivi, mettendo avanti presunte difficoltà di adempimento dei target. Se vogliamo essere seri, aggiunge Claude Turm, eurodeputato dei Verdi europei, in Europa dobbiamo subito aumentare la nostra efficienza, le rinnovabili, l'interconnessione. Siamo noi il motore, dice, dobbiamo decidere. I fatti sono evidenti, sembra fargli eco il portavoce Valero Ladron. Le economie più competitive in Europa sono quelle più efficienti nell'uso dell'energia e delle risorse. Secondo la deputata della sinistra europea Teresa Rodriguez Rubio, la verità è però che non c'è una reale intenzione di cambiare. Che si mettono sempre avanti gli interessi geostrategici che mantengono il vecchio modello energetico dannoso per il pianeta. Senza un segnale forte dall'Europa e ancor più dagli Stati Uniti, sarà difficile convincere i paesi in via di sviluppo o i BRICS a cambiare modelli di riferimento. Our problem is US. Il problema sono gli Stati Uniti ancor più della Cina, insiste Claude Turm. Cosa può dire un primo ministro indiano o uno del Bangladesh? Perché dovremmo muoverci se voi non vi muovete? La prima mossa spetta a noi. Non è d'accordo invece Ian Duncan, eurodeputato conservatore. Stiamo facendo un gran lavoro in Europa per raggiungere dei risultati e l'abbiamo fatto a prezzo piuttosto alto per la nostra industria. Dobbiamo stare attenti, dice, a che qualche paese non tragga da questa situazione dei vantaggi competitivi. Se non partiremo tutti dallo stesso piano, beh, sarà battaglia. Sorride ma pronuncia parole pesanti Kathleen Van Brempt dei Socialdemocratici. Sappiamo già cosa vuol dire combattere per il petrolio o per altre fonti energetiche. Ma in futuro la battaglia sarà per l'acqua, per il cibo. Se non affrontiamo i cambiamenti climatici per tempo, anche la pace mondiale sarà a rischio e dobbiamo rendercene conto. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. proviamo invece adesso a alzare un attimo. Sono su Di Martedì adesso, Di Martedì sulla Sette con Giovanni Floris. C'è Giovanni Toti, consigliere politico per tornare di Berlusconi. Via da quella Fornero che tanta parte di disoccupazione ha creato in questo paese, è agghiacciante, non abbiamo ancora i testi. Ora ci parleremo. Si voterà domani mattina, credo verrà presentata a mezzogiorno per una fiducia alle 3, in altri tempi e con altri governi credo che ci sarebbe la piazza in rivolta. Perché e non so ancora di cosa di stiamo studiarla. Parlando. Critico Toti di Forza Italia. Adesso però parliamo delle 100 proposte di Confindustria per migliorare, per cambiare il sistema italiano dell'educazione. Ne parliamo con Ivan Lobello, che saluto e ringrazio di essere in collegamento. Buonasera, Lobello. Buonasera a voi, buonasera. Vicepresidente per l'Education di Confindustria. Questa è la prima giornata dell'Education, quindi del vostro settore, dipartimento dedicato all'educazione, alla scuola, Lobello. Sì, è stata è la prima convention ampia che facciamo nel nostro paese, perché non è una convention che riguarda solo il mondo dell'impresa, ma riguarda la scuola, i presidi, i professori, c'è tutte le realtà sociali ed economiche che guardano al sistema della Chiesa, c'erano al sistema della scuola. E 1000 persone nell'auditorium della LUIS, una grandissima attenzione fino alla fine. E devo dire, insomma, che sta emergendo una nuova capacità di dialogo tra pezzi della società e delle istituzioni che molto spesso sono stati separati. Vecchie logiche ideologiche stanno cominciando a sparire e l'idea della scuola come elemento fondamentale per la capacità competitiva del paese sta entrando nel DNA di tutti i pezzi sociali. Oggi ne è stata una rappresentazione estremamente, estremamente chiara. Noi pensiamo di dare un contributo, come abbiamo sempre fatto come Confindustria, alla riforma in atto. Guardiamo con attenzione la riforma Renzi-Giannini, merito, valutazione, tutta una serie di questioni, insomma, che stanno dentro la nuova scuola. Quindi abbiamo voluto dare un contributo con 100 idee che abbiamo mandato al presidente Renzi. Mi dice le prime tre, le più forti, le più importanti, quelle secondo voi irrinunciabili? Le più forti sono il merito è un elemento fondamentale della scuola che si è appiattita nel tempo. La autonomia e valutazione della scuola, autonomia che serve anche alla valutazione, che è un elemento fondamentale, alternanza scuola-lavoro, una significativa parte della disoccupazione giovanile dipende dalla mancanza di rapporto fra la scuola e il mondo delle aziende. Questo sta iniziando, ci sono già esempi molto forti, ma è un elemento fondamentale. Siamo convinti che nell'arco di qualche anno potremmo dimezzare la disoccupazione giovanile. E poi tante altre questioni che rappresentano un'idea di riforma della scuola e poi per guardare oggettivamente al futuro. Oggi c'è un problema di competenze, vecchie competenze non servono più, nuove competenze sono richieste dalle aziende e questo presuppone una flessibilità del sistema educativo che non c'è stato in passato e che diventa fondamentale oggi, come bisogna accompagnare tante altre persone che perdono il posto del lavoro, che perdono le competenze e hanno bisogno di essere riformate, cioè formazione continua anche per il futuro. Ecco, cioè, si tratta di mettere in campo una scuola che deve capire che il mondo è cambiato e che oggi diverse sono le policy e le questioni che dobbiamo porre al paese e al sistema scolastico. Però le ripeto, le 1000 persone oggi che rappresentavano tutto il paese sono un elemento estremamente positivo, dà il senso di un paese che finalmente ha capito che deve cambiare, che deve non dico copiare gli altri modelli, ma prendere atto che gli altri modelli hanno determinato una maggiore capacità competitiva degli altri paesi. Per esempio, un modello che prendete come esempio, Lobello? Ma c'è per esempio il modello tedesco sull'alternanza scuola-lavoro, è un modello che ha determinato... E questo avviene nelle scuole superiori, mi perdoni? Questo avviene nelle istituzioni professionali, nelle istituzioni tecniche, anche nelle scuole secondarie, nell'università, nelle lauree professionalizzanti. Le dico che oggi la disoccupazione giovanile tedesca è del 7%, da noi del 44%. Una buona parte di quel 7% dipende prevalentemente da una buona capacità di mettere assieme aziende e scuola. Quello è un modello a cui guardiamo, che va ovviamente declinato anche sulla base del nostro sistema educativo, però è uno degli elementi estremamente importanti a cui abbiamo sempre guardato in questi anni. Bene, io la ringrazio Ivan Lobello, speriamo che qualcosa di concreto in tempi stretti, visto appunto le percentuali di disoccupazione che lei ricordava, no, sarebbe veramente urgente. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Grazie Lobello. Noi a questo punto ci fermiamo, sapete che poi ritorno giusto per ricordarvi, aggiornarvi un po' quelle sono state le notizie principali di questa giornata.